Il terzo anello. Ad alta voce. Piero Baldini legge Il piacere di Gabriele D'Annunzio. Maria, lasciate a questo minuto la sua dolcezza. Lasciate che io esprima tutto il mio pensiero. Ella si levò, disse piano, senza sdegno, senza severità, con una commozione palese nella voce. Perdonatemi, io non posso ascoltarvi. Mi fate molto male. Tacerò. Rimanete, Maria, vi prego. Di nuovo ella sedette. Era come al tempo di Schifanoia. Nulla superava la grazia della finissima testa, che pareva essere travagliata dalla profonda massa dei capelli come da un divino castigo. Un'ombra morbida, tenera, simile alla fusione di due tinte diafane, di un violetto ed un azzurro ideali, le circondava gli occhi, che volgevan l'iride lionata degli angeli bruni. «Io non voleva», soggiunse Andrea umilmente, «non voleva che ricordarvi le mie parole d'un tempo, quelle che ascoltaste una mattina nel parco, sul sedile di marmo sotto gli albatri, in un'ora indimenticabile per me e quasi sacra nella memoria. Io le ricordo. Ebbene, Maria, da quel tempo la mia miseria è divenuta più triste, più oscura, più crudele. Io non saprò mai dirvi tutte le mie sofferenze, tutte le mie abiezioni. Non saprò mai dirvi quante volte la mia anima vi ha chiamata, credendo di morire. Non saprò mai dirvi il brivido di felicità, la sollevazione di tutto il mio essere verso la speranza. Se per un momento io osava pensare che il ricordo di me forse ancora viveva nel vostro cuore». Egli parlava con l'accento medesimo di quella mattina lontana. Pareva ripreso da quella medesima ebbrezza sentimentale. Tutte le malinconie gli risalivano alle labbra, ed ella ascoltava, a capo chino, immobile, quasi nell'attitudine di quella volta, e la sua bocca, l'espressione della sua bocca invano serrata con violenza, come quella volta, tradiva una sorta di dolorosa voluttà. Vi ricordate di Vicomile? Vi ricordate del bosco in quella sera d'ottobre, quando traversammo soli? Donna Maria accennò lievemente col capo, come in atto d'assenso. «E della parola che mi diceste», soggiunse il giovine più sommesso. «Di tutto io mi ricordo», rispose ella. «Di tutto, di tutto. Perché dovrei nascondervi l'anima mia? Voi siete uno spirito nobile e grande, ed io ho fede nella vostra generosità. Perché dovrei condurmi verso di voi come una donna volgare? Quella sera non vi dissi che vi amavo. Io intendo nella vostra domanda un'altra domanda. Voi mi chiedete se ancora io vi ami». Ella esitò un attimo, le labbra le tremarono. «Vi amo, Maria. Ma voi dovete rinunziare per sempre al mio amore. Voi dovete allontanarvi da me. Dovete essere nobile e grande e generoso, risparmiandomi una lotta che mi fa paura. Io ho molto sofferto, Andrea, e saputo soffrire. Ma il pensiero di dover combattere contro di voi, di dovermi difendere contro di voi, mi dà un terrore folle. Voi non sapete a costo di quali sacrifici ero giunta ad ottenere la calma del cuore. Non sapete a quali alti e carissimi ideali ho rinunziato. Poveri ideali. Sono diventata un'altra donna, perché era necessario che io diventassi un'altra. Sono diventata una donna comune, perché così chiedeva il dovere». Ella aveva nella voce una malinconia grave e soave. «Incontrandovi, sentii d'un tratto risorgere in me i vecchi sogni. Sentii rivivere l'anima antica. E nei primi giorni mi abbandonai alla dolcezza, chiudendo gli occhi sul pericolo lontano». «Non è possibile, non è possibile», ella seguitò scotendo la testa in atto di rammarico. «Noi dobbiamo rinunziare per sempre a qualunque speranza. La vita è implacabile. Senza volere voi distruggereste un'intera esistenza. E forse non una sola». «Maria, Maria, non dite queste cose. Io farò quel che vorrete. Io sarò umile e obbediente. La mia unica aspirazione è d'obbedirvi. Il mio unico desiderio è di morire nel vostro nome. Rinunziare a voi è rinunziare alla salvezza, ricader per sempre nella rovina, non rialzarsi mai più. Io vi amo come nessuna parola umana potrà mai esprimere. Ho bisogno di voi. Voi soltanto siete vera. Voi siete la verità che il mio spirito cerca. Il resto è vano, il resto è nulla. Rinunziare a voi è come entrare nella morte. Ma se il sacrificio di me vale a conservarvi la pace, io vi debbo il sacrificio. Non temete, Maria. Io non vi farò alcun male. Quando Andrea tacque, certe parole proferite nel parco nella mattina indimenticabile le tornarono alla memoria, rianimate dal son recente della voce di lui, mosse dalla nuova commozione. La sola presenza vostra visibile bastava a darmi lebbrezza. Io la sentiva fluire nelle mie vene come un sangue e invadere il mio spirito come un sentimento sovrumano. Successe un intervallo di silenzio. Si udiva di tratto in tratto il vento scuotere i vetri delle finestre. Giungeva col vento un clamore lontano, misto al rombo delle vetture. Entrava una luce fredda e limpida come un'acqua sorgiva. Negli angoli si raccoglieva l'ombra. «Ora che pensate?» chiese Andrea. «Non pensate alla mia fine?» «Io non so dirvi», ella rispose passandosi la mano sulla fronte con un gesto lieve. «Non so dirvi che strano presentimento mi opprima da lungo tempo. Non so, ma io temo». Ella soggiunse dopo una pausa. «Pensare che voi soffrite, che voi siete malato, povero amico, e che io non potrò alleviarvi la pena, che io vi mancherò nella vostra ora d'angoscia, che io non saprò se voi mi chiamerete, mio Dio». Ella aveva nella voce un tremito e una fievolezza quasi di pianto, come se le si fosse chiusa la gola. Andrea teneva il capo chino. «Non mi abbandonate, non mi abbandonate», proruppe il giovine prendendole ambo le mani, quasi inginocchiandosi in preda a una grande esaltazione. «Io non vi chiederò nulla, non voglio da voi che la pietà. La pietà che mi venisse da voi mi sarebbe più cara della passione di qualunque altra, voi lo sapete. Le vostre sole mani mi potranno guarire, mi potranno ricondurre alla vita, sollevare dalla bassezza, ridonare la fede, liberare da tutte le cattive cose che mi infettano e mi empiono d'orrore. Care, care mani!» Egli si chinò a baciarle. Vi tenne premuta la bocca. Socchiuse gli occhi in atto di somma dolcezza, mentre diceva piano, con un accento indefinibile, «Vi sento tremare». Ella si levò tremante, smarrita, più pallida di quando nella mattina memorabile camminava sotto i fiori. Il vento scuoteva i vetri. Giungeva un clamore come d'una moltitudine ammutinata. Quelle grida nel vento che venivano dal Quirinale le aumentarono l'agitazione. «Addio, vi prego, Andrea, non rimanete più qui. Mi vedrete un'altra volta, quando vorrete. Ma ora, addio, vi prego. Dove vi vedrò? Al concerto. Domani. Addio». Ella era tutta sconvolta, come se avesse commessa una colpa. Lo accompagnò fino alla porta della stanza. Rimasta sola, esitò, non sapendo che fare, ancora tenuta dallo sbigottimento. Si sentiva ardere le guance e le tempie intorno agli occhi di un ardore intenso, mentre per il resto del corpo rabbrividiva. Ma sulle mani l'impressione della bocca amata persisteva come un suggello, ed era un'impressione deliziosa. Ed ella avrebbe voluto che fosse indelebile, come un suggello divino. Il giorno dopo, ella salì al palazzo dei Sabini, con il cuor palpitante sotto un mazzo di violette. Andrea già era ad attenderla sulla porta della sala. Stringendole la mano, le disse «Grazie». La condusse a una sedia, le si mise accanto. Le disse «Credevo di morire aspettandovi. Temevo che non veniste, come vi son grato». Le disse «Ier sera tardi io passai dalla vostra casa. Vidi un lume ad una finestra, la terza finestra verso il Quirinale. Non so che avrei dato per conoscere se voi eravate là». Il concerto incominciò con un quartetto del Mendelssohn. La sala era già quasi interamente occupata. L'uditorio componevasi in massima parte di dame straniere. Ed era un uditorio biondo, pieno di modestia negli abiti, pieno di raccoglimento nelle attitudini. Era il 2 di febbraio, un mercoledì. In Montecitorio il Parlamento disputava per il fatto di Dogali. Le vie e le piazze prossime rigurgitavano di popolo e di soldati. I ricordi musicali di Schifanoia sorsero nello spirito dei due amanti. Un riflesso di quell'autunno illuminò i loro pensieri. Al suono del minuetto mendelssoniano si svolgeva la visione della villa marittima, nella sala profumata dai giardini sottoposti, dove negli intercolumni del vestibolo si levavano le cime dei cipressi, si scorgevano le vele di fiamma su un lembo di mare sereno. Di tratto in tratto Andrea, chinandosi un poco verso la senese, le chiedeva piano: «Che pensate?» E la rispondeva con un sorriso così tenue che gli appena giungeva a coglierlo. «Vi ricordate del 23 settembre?» E la disse. Andrea non aveva ben distinto nella memoria quel ricordo, ma assentì col capo. I loro gomiti si sfioravano. Alla fine di ogni tempo, Andrea si chinava verso di lei per leggerne il programma, che la teneva spiegato fra le mani, e nell'atto le premeva il braccio. Sentiva l'odore delle viole. Le comunicava un brivido di delizia. I due si guardarono, con gli occhi alterati, come se si distaccassero dopo un amplesso di insostenibile piacere. La musica continuava. La luce della sala diventava più discreta. Un tepor dilettoso addolciva l'aria. Intiepidite le violette di Donna Maria esalavano un profumo più forte. Andrea aveva quasi l'illusione d'essere solo con lei, poiché non vedeva dinanzi a sé persone che gli conoscesse. Ma si ingannava. In un intervallo, volgendosi, vide Elena Muti, diritta in fondo alla sala, accompagnata dalla principessa di Ferentino. Subito il suo sguardo incontrò quel di lei. Da lontano egli salutò. Gli parve di scorgere sulle labbra di Elena un sorriso singolare. «Chi salutate?» chiese Donna Maria, anche volgendosi. «Chi sono quelle signore?» «Lady Hetfield e la principessa di Ferentino». Ella crede sentire nella voce di lui un turbamento. «Qual è la Ferentino?» «La bionda». «L'altra è molto bella». Andrea tacque. «Ma è un inglese?» ella soggiunse. «No, è una romana. È la vedova del duca di Sherney, passata a Lord Hetfield in seconde nozze». «È molto bella». Andrea domandò con premura: «Ora che suoneranno?» «Il quartetto del Brahms, in do minore». «Lo conoscete?» «No». «Il secondo tempo è meraviglioso». Per celare la sua inquietudine, egli parlava. «Quando vi vedrò ancora?» «Non so, domani». E la titubò. Pareva che le fosse discesa per il volto una lieve ombra. Rispose: «Domani, se ci sarà sole, verrò con Delfina sulla piazza di Spagna, verso mezzogiorno». «E se il sole mancasse?» «Sabato sera andrò dalla contessa Starnina». La musica ricominciava. Andrea fu invaso da una così terribile ansia che temé di tradirsi. Tutta la dolcezza di prima gli si convertì in amarezza. Provava dentro un'espressione indefinibile, come ed un vuoto in cui risonassero di continuo grandi urti con un'eco dolorosa, e il suo pensiero si spezzava in mille frammenti, si sconnetteva, si disfaceva, e le due immagini femminili si sovrapponevano, si confondevano, si distruggevano a vicenda, senza che egli potesse giungere a separarle, senza che egli potesse giungere a definire il suo sentimento verso l'una, il suo sentimento verso l'altra. «Io vado», disse Donna Maria levandosi dopo la romanza. «Non aspettate la fine?» «No, devo essere a casa per le 5». «Ricordatevi domattina». Ella gli tese la mano. Forse per il calore dell'aria chiusa, una lieve fiamma le avvivava la pallidezza. Un mantello di velluto di un color cupo di piombo, orlato di una larga zona di cincillale, copriva tutta la persona, e tra la pelliccia cinerea le violette morivano squisitamente. Nell'uscire ella camminava con sovrana eleganza, mentre qualcuna delle signore sedute volgevasi a guardarla, e per la prima volta Andrea vide in lei, nella donna spirituale, nella pura Madonna senese, la dama di mondo. Per uno di quei singolari fenomeni d'elasticità e di volubilità repentini, Andrea provò un senso di sollievo quasi gaio. Egli perse ogni preoccupazione sentimentale e passionale d'un tratto, e l'avventura di piacere apparve sola alla sua vanità, alla sua viziosità, lucidamente. Egli pensò che Donna Maria, concedendogli quei convegni innocui, già aveva messo il piede sulla dolce china, in fondo a cui è il peccato inevitabile, anche per le anime più vigili. Pensò che forse un po' di gelosia avrebbe potuto spingere Elena a ricadergli nelle braccia, e che quindi forse l'una avventura avrebbe aiutata l'altra. Pensò che forse appunto un vago timore, un presentimento geloso, avevano affrettato l'assenso di Donna Maria al prossimo convegno. Egli era dunque sulla via di una duplice conquista, e sorrise, notando che in ambedue le imprese la difficoltà si presentava sotto un medesimo aspetto. Egli doveva convertir in amanti due sorelle, cioè due che volevano presso di lui far profession di sorelle. Altre simiglianze fra i due casi, egli notò sorridendo. Quella voce. Com'erano strani nella voce di Donna Maria gli accenti di Elena. Gli balenò un pensiero folle. Quella voce poteva essere per lui l'elemento di un'opera d'immaginazione. In virtù di una tale affinità, egli poteva fondere le due bellezze per possederne una terza immaginaria, più complessa, più perfetta, più vera, perché ideale. Il terzo tempo, eseguito con un impeccabile stile, finiva fra gli applausi. Andrea si levò, si avvicinò a Elena. «Oh, Ugenta, dove siete stato fino ad ora?» gli disse la principessa di Ferentino. «Au pays du tendre?» «E quell'incognita?» gli disse Elena con un'aria leggera, odorando un mazzo di viole tirato fuori dal manicotto di Martora. «È una grande amica di mia cugina, Donna Maria Ferressi Capdevila, moglie del nuovo ministro di Guatemala», rispose Andrea senza turbarsi. «Una bella creatura, assai fine. Era da Francesca, a Schifanoia, in settembre». Elena ascoltava con la testa china, facendo scorrere tra le sue mani le estremità di un lucido boa di Martora. «Accompagnateci», ella disse quando il concerto fu finito, allo Sperelli. Montando in carrozza dopo la Ferentino, ella disse: «Montate anche voi, lasciamo Eva al Palazzo Fiano, vi poso poi dove volete. Grazie». Lo Sperelli accettò. Uscendo nel corso, la carrozza fu costretta a procedere con lentezza, perché tutta la via era ingombra di gente in tumulto. Dalla piazza di Montecitorio, dalla piazza Colonna venivano clamori e si propagavano come uno strepito di flutti, aumentavano, cadevano, risorgevano, misti agli squilli delle trombe militari. La sedizione ingrossava nella sera cinerea e fredda. L'orrore della strage lontana faceva urlare la plebe. Uomini in corsa, agitando gran fasci di fogli, fendevano la calca. Emergeva distinto sui clamori il nome d'Africa. «Per 400 bruti morti brutalmente», mormorò Andrea ritirandosi, dopo aver osservato allo sportello. «Ma che dite?» esclamò la Ferentino. Sull'angolo del palazzo Chigi il tumulto sembrava una zuffa. La carrozza fu costretta a fermarsi. Elena si chinò per guardare, il suo volto fuor dell'ombra, illuminandosi al riflesso del fanale e alla luce del crepuscolo, apparve d'una bianchezza gelida e un po' livida. «Eccoci», disse la principessa, poiché la carrozza era giunta finalmente al Palazzo Fiano. «Addio dunque». La principessa discese. Il servo aspettava un ordine. «Dove volete che io vi porti?» domandò Elena. «Far away». E senza aspettare altra risposta, ella ordinò: «Trinità de Monti, Palazzo Zuccari». Il servo richiuse lo sportello. La carrozza si mosse al trotto. Voltò per la via Frattina, lasciando dietro di sé la folla, le grida, i rumori. «Oh, Elena, dopo tanto!» proruppe Andrea chinandosi a guardare la desiderata. Elena sorrideva, bianca, di un sorriso attirante. Sempre così sorridendo, ella si tolse dal collo con un gesto agile il lungo boa di martora e lo gittò intorno al collo di lui in guisa di un laccio. Pareva facesse per gioco, ma con quel morbido laccio profumato ella attirò il giovine, gli offerse le labbra, senza parlare. Ambedue le bocche si ricordarono delle antiche mescolanze, di quelle congiunzioni terribili e soavi che duravano fino all'ambascia e davano al cuore la sensazione illusoria come d'un frutto molle e roscido che vi si sciogliesse. Per prolungare il sorso contenevano il respiro. La carrozza dalla via dei due macelli salì per la via del Tritone, voltò nella via Sistina, si fermò al palazzo Zuccari. Rapidamente Elena respinse il giovane, gli disse con la voce un po' velata: «Discendi, addio, quando verrai, chissà». Il servo aprì lo sportello, Andrea discese. Piero Baldini ha letto Il piacere di Gabriele D'Annunzio, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it.